Chiediamo ai cittadini di partecipare partecipando con noi alla campagna di rilevazione. In che modo? O prenotando un rilevatore, quindi che può essere sistemato nella propria abitazione seguendo le istruzioni che vengono date insieme al rilevatore, oppure supportando la presenza di rilevatori in strada che noi cureremo in termini di posizionamento e di gestione. In questo modo l'obiettivo è arrivare a 200 campionatori che permettono di avere una mappatura per le diverse aree delle condizioni dell'area a Bologna, in particolare degli NO2, del biossido di azoto, che è uno degli inquinanti più significativi prodotto per circa il 60% dal traffico veicolare. L'obiettivo è farlo partire dal 25 gennaio al 25 febbraio, quindi lasciando i dosimetri a raccogliere NO2 per un mese e poi analizzandoli una volta che sono stati accumulati. Sarà fatta anche in connessione con la campagna di Milano e con la campagna in altre città, questo perché il movimento sulla qualità dell'aria è un movimento che ormai in Italia prende piede, perché l'Italia ha la peggiore aria dell'Unione Europea e in particolare la pianura padana è una delle peggiori d'Italia, e questo ci sembra effettivamente una cosa rilevantissima per la salute e la vita di molte persone. Rilevatore compreso l'analisi è di 20 euro, si può prenotare sul sito e verrà distribuito da gennaio, quindi Aria Pesa, diciamo il nome del sito, e quindi è facile da recuperare. La campagna si chiama Pesa l'aria perché l'obiettivo è quello di rendere evidente ai cittadini la pesantezza dell'aria che respiriamo. C'è un duplice obiettivo, che è quello di rendere più consapevoli i cittadini, ma anche di integrare i dati dell'ARPA, che sono buoni, ma come dire, non così suddivisi per zone. Sì, innanzitutto di rendere evidente che c'è necessità di integrarli. Poi noi daremo un piccolo contributo, non dico all'integrazione, ma a rendere evidente che i dati possono variare in funzione della posizione all'interno della città di Bologna, e che questa necessità di avere un dettaglio maggiore riguarda la possibilità anche poi di fare valutazioni sull'impatto sulla salute, no? Dei cittadini, perché senza questi dati, senza un dettaglio maggiore, visto che ARPA ha, come dicevamo, l'obiettivo di contribuire a una rete regionale, ma non ha l'obiettivo di rendere evidente un dettaglio territoriale. Questo dettaglio territoriale sugli NO2, così come su altri inquinanti, è abbastanza importante e pensiamo debba essere implementato, visto la rilevanza in termini di salute di questi inquinanti, che da una rilevazione della VIAS che è uscita nel 2015, in realtà si riferisce a dati del 2010, ma non sono molti migliorati i dati dell'NO2, poneva un problema di, diciamo, mortalità derivante agli NO2 anche di 60-70 persone per ogni 100.000 abitanti, quindi rilevantissima rispetto ad altre fonti, insomma, di danno per la salute. Noi abbiamo anche durante l'azione sul passante sollecitato, reso evidente che ci potevano essere dei dati epidemiologici anche che potevano essere interpretati anche in un'ottica di valutazione dell'inquinamento, ovviamente senza avere la presenza di centraline un dato significativo su questo, si fa fatica anche a incrociare i dati e a trovare delle reali correlazioni.